furbetti della lambada, del merengue e delle bocce hanno evaso oltre 250 milioni di tasse nel 2011. Stiamo parlando degli evasori fiscali tanto più odiosi perché si spacciano per enti non profit. Si tratta di numerosi circoli e associazioni culturali che organizzano corsi e serate ma che nascondono vere e proprie attività commerciali di intrattenimento, facendo pagare l'entrata, l'iscrizione al corso, vendendo da bere e da mangiare. Da 1000 verifiche portate avanti dall'Agenzia delle Entrate è emerso che questi furbetti hanno evaso circa 133 milioni di IRES, 105 milioni di IRAP e IVA per circa 28 milioni. Un caso eclatante è stato scoperto recentemente dalla Guardia di Finanza a Rovereto. A forza di ballare, bere e mangiare, gli incassi non dichiarati dell'associazione pizzicata erano arrivati alla bella cifra di 60.000 euro. Un comportamento tre volte da biasimare. Infatti, in questi casi, chi non paga le tasse non solo danneggia l'erario, non solo fa concorrenza sleale a bar, ristoranti, corsi di ballo registrati come attività commerciali, ma si fa anche beffe della buona fede dei cittadini e delle associazioni non profit che operano davvero nel settore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.